a feeling that I never had before. No, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera a tutte, ben sintonizzate sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, intanto stasera abbiamo avuto la fortuna di avere due compagne qui in radio che ci aiutano e ci fanno da foniche, perché stasera io e Pina, senza Caterina, siamo un po' perse. Intanto state ascoltando la nostra 196esima trasmissione. E appunto, come vi dicevo, a farvi compagnia siamo Lucilla, che sono io, e Pina. Ecco qua. Allora, Caterina comunque ha collaborato e noi la salutiamo. Vi ricordiamo che avete la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta. Allora, cosa prevede oggi la scaletta? Noi che abbiamo stare fuori dal coro, tant'è vero che con tutto il dibattito aperto su unioni civili, Pax contro Pax, eccetera eccetera, noi stasera vi parliamo di storia. E soprattutto vi invitiamo ad ascoltarci, perché state con noi a un grande appuntamento con le dimenticate, o le passate opportunamente sotto un silenzio assordante, che è quello della cancellazione patriarcale. Quindi sull'attualità ci risentiremo, prossimamente, anzi ci sarà una grande sorpresa. Allora, vi ripeto, stasera parleremo di storia, parleremo dell'antico Egitto e parleremo delle donne che sono state a Faraone, di una in particolare. Sentirete dopo. Intanto possiamo partire con un pezzo musicale ed è Fiorella Mannoia, e sentite un po' se vi piace. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, a vida breve precisa que haja vento sem parar. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade é como a gota de orvalho numa pedra de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. Trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. Felicidade sim. Ah, felicidade como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Riprendiamo con la storia, e la storia di Hatshepsut, la donna faraone d'Egitto. Ringrazio Caterina che ci ha fornito questo pezzo e parlo per Caterina. Abbiamo deciso di fare una trasmissione di donne e storia parlando dell'Egitto. Per quel che mi riguarda, sono stata spronata a realizzarla più dalla passione di Pina per l'Egitto che per la mia reale conoscenza. Devo comunque riconoscere che più leggevo su questo popolo, più mi appassionavo alla loro storia, tradizione e cultura. Pensate che la civiltà egizia si differenziava in modo consistente e strutturale da quella del resto dell'Oriente, dimostrando un'avanguardia di pensiero invidiabile. Non a caso si può tranquillamente valutare il grado di civiltà di un popolo analizzando all'interno dell'organizzazione sociale la condizione di vita delle donne. Abbiamo potuto riscontrare che gli egiziani avevano un assoluto rispetto per le donne, alcune delle quali, ad esempio, occupavano alte cariche dello Stato, cosa che in Italia, ancora oggi, nel XXI secolo, sappiamo quanto sia difficile. Inutile ricordare la famosa questione delle quote rosa, no? Gli studiosi hanno voluto rilevare, come è del resto normale che accada ogni qualvolta si verifica tale condizione, che le donne al potere furono determinanti in tutta la storia dell'Egitto. Nell'antico Egitto era stato creato uno straordinario sistema giuridico in base al quale la donna e l'uomo erano uguali per legge e di fatto. Inoltre, le donne, non essendo sottoposte e soggette ad alcuna tutela, cosa che invece, come ben vi vorrei ricordare, questa sono io Lucilla, vi vorrei ricordare che troppo spesso le leggi fatte ad hoc su donne e sull'infanzia sono di tutela, usufruivano di un'assoluta autonomia. Possiamo dire che godevano di condizioni di vita decisamente superiori a quelle che si trovano a subire ancora oggi milioni di donne nel mondo. Ora bocca a Deo, du vazzo con sallo, tu scallo, tu traballo e tu sei vini, vini, vini, vini, vini, vini, vini, vini, poi in una cassarolla, due pongo solo d'esta dolla e du vazzo sartai, hanno marreche di me su viziori, de su piviri, non ci vuole sta su viviri, povera Egeri, piviri, il tariba, i tariba arrivato, piviri, c'è su, a rossa didda che non d'uscisi vai, queste cose va fai, non è che mi casa su viviri, tu buoni samuntoni, e su macarroni, su chi ci oi, de sa mendue da frisca, giù di vista, così da fanau, arrubiau, con minuni e due, pane e gutteau. Queste cose va fai, to, carrozza di vita, quando tu ci si va, tira di mi questo piviri. Ehi, ehi, o luba fai, o luba fai, ai o da fai. Ehi, e a cabada. Ehi, ehi, o luba fai, trappica gru. Fatta all'estinco, punta mattiga, prenata, rosa e trigo, burrida e santuido, cotta olla e mendola, ehi, ehi, ehi, piviri e accabbada. Ok, allora avete sentito le farawalla che come al solito sono pezzi che porto io perché piacciono molto a me e vabbè, spero che vi sia piaciuto. Riprendiamo da Hatshepsut e intanto vi segnaliamo che nel documento che noi abbiamo prodotto come CLR in occasione dell'iniziativa fatta insieme a Facciamo Breccia denunciavamo in quel documento, ad esempio, quanto la donna ancora oggi fosse discriminata, e nel rivendicare l'importanza dell'autodeterminazione avevamo segnalato, tra le altre, la possibilità negata alle donne di servire messa, una cosa tanto per dirne una qualsiasi, no? Oggi non solo è impensabile ipotizzare una donna papa, ma anche rabbino capo o rettore di una moschea. Bene, molte donne egizie invece raggiunsero anche i più alti gradi della gerarchia, allora, se si può definire ecclesiastica, ma comunque dei sacerdoti. Ma torniamo ad altre forme di potere. Forse quello ecclesiastico è la parte che meno ci interessa. Dunque, prima stavamo sottolineando che le donne ebbero un ruolo fondamentale in tutta la storia dell'antico Egitto. Infatti furono anche visir, cioè alti funzionari pubblici, scriba idut, cioè proprietarie terriere, letterate, medici, imprenditrici, esperte di finanza, artigiane e via discorrendo. Tutte queste figure furono personaggi straordinari che segnarono un percorso di ricchezza e splendore ancora oggi ineguagliati. Molte delle notizie che oggi riportiamo sono state prese dal libro Le donne dei faraoni di Christian Jacques. Ora già Le donne dei faraoni mi fa alterare il titolo, no? Non le donne che sono state faraoni o faraone, come te pare, ma le donne dei faraoni. Comunque, pur ammettendo che è fatto molto bene, dice Caterina, come quasi sempre capita nel leggere gli scritti di un uomo, in particolar modo quando si cimentano nel parlare della condizione delle donne, ci si aspetta sempre, prima o poi, una stangata, ed infatti eccola. Riportiamo le testuali parole. Le regine partecipavano di fatto al governo del paese. Lungi dall'essere delle first lady scialbe e senza consistenza, esse dovevano adempiere le funzioni di donne di Stato e venivano scelte in base alle loro attitudini a svolgere tale compito. È questa la ragione per cui i testi esaltano sia il loro senso dell'autorità, sia la loro, avanti, provate a indovinare, la loro che? La loro bellezza. Siamo lontane da un generico femminismo, che vorrà dire non si sa. Ciò che viene valorizzato è messo in pratica è il ruolo spirituale della donna, la sua partecipazione attiva alla creazione del pensiero. Un'idea che si è persa col venire meno dell'istituzione faraonica, per cui si può parlare di regressione piuttosto che di progresso. Cando è scuro e due sa luna, no accudinti a sa sebiai. Ehi, partiam da cielo e bovanta, se rienda forte do tu impari, alto vola, ehi, non taghi vunti ma basa, ci candi vivi usù, così tu spappai. Chi ben sei, chi poprimo ha fatto sa qua, o su malivato. E chi ben sei, chi a malogu va tu poprima, da di sana. E chi a sana augusto scorus, si caude dopo mori, chi sogdu, orsis proprio sogdu. Ehi, Aina aur aitar Minne gum hat belline Ait belline Ait baharu aikmel Ella mar mein farkaine Mein farkaine Aina aur aitar Minne gum hat belline Ait belline Ait baharu aikmel Rienda fronte do tu impari alto vola ehi nanda gi punti ma basa ci candi vi più su così tu spatta Allora, non so se vi sono piaciute, questo era ancora un altro pezzo delle Farawalla e spero di sì. E scusate, delle Balentes, le Farawalla verranno dopo, scusate. Allora, riprendiamo invece quanto ha considerato Caterina a proposito del tipo dello scrittore, di quel Christian Jack. E qui non si capisce bene se ce l'abbia con le First Lady o se sottolinea una difficoltà delle donne alla partecipazione attiva alla creazione di pensiero. Inoltre, non si comprende se attribuisce queste attitudini solo alle donne egiziane, se pensa che il venir meno dell'istituzione faraonica abbia decretato la fine di tali attitudini e che, se le donne, in seguito, non abbiano volutamente più dimostrato tali capacità. Sarebbe inoltre interessante capire il perché parla di regressione piuttosto che di progresso. Intende dire che alle donne non è stato più permessa la creazione di pensiero? O piuttosto che le donne, attraverso il femminismo, non sono state capaci di individuare le giuste rivendicazioni? O di fare giuste considerazioni sul mondo? Non avere un occhio sul mondo? Ma chi può dirlo? Andrebbe intervistato lui e, onestamente, Caterina dice, nella realtà a noi non importa molto cosa egli pensi. Volevamo soltanto sottolineare ancora una volta il pensiero dominante di cui lui si fa portatore. Continuiamo a questo punto a parlare delle donne e dell'antico Egitto e di quella che a noi è sembrata una donna straordinaria, Hatshepsut. Anche lei, come tutte le donne che hanno fatto la storia, è stata cancellata. È proprio vero che facciamo paura. Noi continuiamo imperterriti a non accorgercene e a far finta di niente. Forse se ci rendiamo ben conto della nostra portata e del nostro potere, beh, insomma, veramente con una risata li seppelliremo tutti. È vero, è molto difficile a questo punto della nostra storia prendere in mano le redini della situazione. La società è strutturata in maniera tale che gli intrighi, le connessioni e quant'altro sono modalità che, in quanto donne, non ci appartengono. Eppure, da qualche parte dobbiamo cominciare ad abbattere questo muro. L'importante è tenere sempre diritta la barra, che nel nostro caso significa non modificare il nostro DNA, e non abbiamo alcun dubbio che prima o poi avremo un mondo migliore. Shama da dova Vine mandar con me ai mariti di Cuba Vine dada Vine mandar con me ai mariti di Cuba Vine dada In da casa Vine da casa Vine andar che ah ah Vaso matrasa Per la faccia una secunda la e a Vine dada Vine dada, ah, ah, marame, marate, ah, scendale qui, scendale qui, scendale qui, kumba, vine dada, vine dada, marame, marate, ah, scendale qui, scendale qui, kumba, vine dada, vine dada, marame, marate, ah, scendale qui, scendale qui, kumba, vine dada, vine dada, marame, marate, ai scendale qui, andare qui a cumba vina dada marame marame pare curi urie inda la casa vina dada vasa vina andare che ah ah vasa matrasa para bacionasa cuna la e a vina dada mangia ma se ari curi urie na ma se ari mare di ah ah mangia ma se ari curi urie na ma se ari mare di ah ah mangia ma se ari curi urie na ma se ari mare di ah Allora, abbiamo finito il pezzo di contributo di Caterina, adesso partirà Pina, ma prima vi ricordiamo che, se non lo sapeste, che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì. Addio. Del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17. Tutti i martedì! Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni giovedì a partire dalle ore 21 al numero 06 6864 201. Questo è un telefono fax e segreteria telefonica che in genere non ascoltiamo. Ops. Oppure ancora potete scriverci. Esatto. CLR, ci abbiamo da lira. CLR, potete scriverci con la carta, appunto, CLR presso Casa Internazionale della Donna, delle Donne, via San Francesco di Sales 1B, 00165 Roma. La nostra mail è contatti@clrbp.it e il nostro web site, insomma il sito, è www.clrbp.it. Il numero degli SMS è 338 4146 682 e tanto per cambiare ce lo siamo scordato a casa. Ma questo capita a me che so giurassica, va bene? anche per oggi aspettiamo molti, però insomma voi scriveteci e noi li pubblicheremo sul sito, quello che voi scrivete. E come diciamo sempre, se avete voglia di dirci cose, se volete suggerirci trasmissioni, idee, eccetera, scriveteci a contatti@clrbp.it oppure contattateci in radio 06 49 17 50. E adesso vai, Pina. Ok, buonasera a tutte. Io continuo sulla storia di Hatshepsut. Allora, dicevamo, come abbiamo sentito prima, che nell'antico Egitto la condizione delle donne era avanzata, anzi sembra avanzatissima, rispetto alla civiltà attuale, ma nonostante ciò esse potevano essere regine ma non faraone. La prima volta che io, Pina, ho sentito parlare di Hatshepsut è stato durante una visita guidata in una mostra sugli antichi egizi a Palazzo Grassi a Venezia. Ricordo che la guida, una donna per l'appunto, ci parlò tra gli altri di questo unico faraone donna. Immediatamente attirò la mia attenzione, ancora più di prima, e ascoltai estasiata la descrizione strabiliante che fece di Hatshepsut. Ricordo che tornai a casa e mi misi subito alla ricerca, proprio perché pensavo che potesse rientrare in una delle nostre trasmissioni su Donne e Storia. Purtroppo non ne trovai traccia, sapete perché? Perché le avevo letteralmente stroppiato il nome. In pratica avevo scritto il nome a casaccio così come lo avevo sentito. Successivamente, con mia grande gioia, è stato possibile iniziare le ricerche con il nome ben scritto. Quindi le donne che nella storia hanno conquistato il potere sono poche, anche se quasi tutte hanno lasciato il segno del loro passaggio in un modo o nell'altro. Hatshepsut è una di queste. Per più di 20 anni sedette su un trono che era riservato solo agli uomini, anche se colui che le succedette dopo la sua morte tentò di cancellarne persino il ricordo. Sembrerebbe, e qui i pareri sono un po' contrastanti, che Hatshepsut sia stato l'unico faraone. Altri invece asseriscono di altre 4 donne divenute faraone, ma su una cosa sono tutti d'accordo: che Hatshepsut è senz'altro la più nota ed è anche uno dei faraoni più importanti nella storia dell'Egitto. Hatshepsut crebbe nel palazzo del re e fu educata dagli scribi di corte. La sua ascesa al potere è legata alla dinastia dei Tutmosi tra il 1524 e il 1518 a.C. Quando Tutmosi I morì, sua figlia Hatshepsut aveva circa 15-20 anni e per tradizione divenne sposa reale di Tutmosi II, il quale regnò pochissimi anni. Alla sua morte il faraone designato era Tutmosi III, che però aveva soltanto 5-6 anni e non era quindi in grado di governare. Nel pieno rispetto delle tradizioni, si chiese alla sposa reale di assumere la reggenza per poi cedere il potere al faraone Tutmosi III, non appena questi avesse acquistato le competenze necessarie per regnare. Senima vrazze, cale ne mosca, fale ne vinda, pinda, come avere una sushka e con ne busca, se ne pisa, se ne mavraca, le ne mo, fale ne vinda, vinda, pisa, ne mavraca, le ne mo, fale ne vinda, vinda, pisa, ne mavraca, le ne mo, fale ne vinda, vinda, pisa, ne mavraca, le ne mo, fale ne vinda, vinda, sinda, ne pisca, se ne mavraca, le ne mosca, fale ne vinda, vinda, come bene una susca, e con de zine ne busca, se ne quello che si legge sui libri, insomma, nella sua storia. Quindi avevamo detto che altri invece asseriscono che Tutmosi I, dopo la morte dei suoi figli maschi, presentò sua figlia Cepsut alla corte e ne fece la sua erede, come attesta tra l'altro una sua iscrizione che si trova nel suo tempio funerario di Deir el-Bahari. E c'è scritto proprio testualmente: poi sua maestà Tutmosi I disse a loro: questa è mia figlia, come Tamon a Cepsut, possa lei vivere. Io ho scelto lei come successore per il mio trono. Lei dirigerà il popolo in ogni parte del palazzo. Lei vi guiderà. Obbedite alle sue parole, unitevi al suo comando. I nobili reali, i dignitari e i capi del popolo sentirono il proclama «Possa lei vivere in eterno» che decretava la promozione della figlia del re dell'Alto e del Basso Egitto. Sappiamo comunque per certo che ella governò per 20 lunghi anni e la sua autorità fu riconosciuta ed accettata da tutti. L'architetto Ineni, architetto che aveva contribuito con il padre di Hatshepsut ad ingrandire il tempio di Karnak, scrisse di lei: gestì gli affari dell'Egitto secondo i suoi piani e lei era il cavo che serve a trainare il nord, il pilastro con il quale si ormeggia il sud. Era il frenello perfetto del timone, la sovrana che dà ordini, i cui eccellenti piani pacificano le due terre quando parla. Hatshepsut svolse un'intensa attività edilizia in tutto l'Egitto. Al suo nome sono legate opere grandiose sparse un po' su tutto il territorio: Tebe, Hermontis, Komombo, El Kab, Kusai e Ermopoli. Inoltre, fra Karnak e Luxor, fece costruire delle piccole cappelle che dovevano servire da stazioni di approdo per la barca sacra durante le processioni. Fece anche costruire un enorme obelisco in un unico blocco di granita rosa di Aswan, 317 tonnellate, che è ancora presente nel vicino tempio di Karnak, con il quale aveva la possibilità di ricevere la parola divina che le indicava cosa doveva fare. A lei si deve l'allargamento e la ristrutturazione di un piccolo santuario rupestre consacrato ad una dea leonessa di nome Paket. Visto che la tradizione voleva che questo fosse stato distrutto dall'occupante Ixos, il barbaro e profanatore, Hatshepsut, con il ripristino di quel santuario, affermò di essere stata lei a cacciare l'occupante e a liberare il luogo. In questo modo ristabilì la pace e l'armonia in tutto il paese, facendosi garante della libertà ritrovata. Ma la cosa eccezionale fu che per continuare a garantirla si preoccupò del benessere morale e materiale del suo esercito che, se ben nutrito e considerato, avrebbe salvaguardato la libertà e lottato contro le forze delle tenebre. Hatshepsut fu certamente un buon faraone e durante il suo regno l'Egitto conobbe un periodo di pace e prosperità. Infatti si adoperò per espandere il commercio egiziano, intraprese diverse esplorazioni e finanziò spedizioni commerciali, tra le quali una delle più importanti è il viaggio appunto nella costa somala, che ha condotto al commercio dell'avorio, degli alberi, delle pantere, dei bestiami e delle preziose piante di mirra e incenso. Hatshepsut ricoprì anche la carica di divina adoratrice di Amon, ruolo che la poneva molto in alto nella gerarchia ecclesiastica. Il suo regno, un'epoca in cui la pace interna, l'esplorazione di paesi stranieri e l'espansione, la costruzione di edifici monumentali, il benessere economico trovarono un attento e delicato equilibrio, fu sotto tutti i punti di vista un modo nuovo di governare. Sotto di lei l'Egitto prosperò. Insomma, Hatshepsut ha governato con successo per 20 anni, la civiltà più potente e più avanzata nel mondo, cosa che nessuna donna aveva mai fatto prima di lei e possiamo dire anche dopo di lei. Così dimostrando ed indicando alle altre donne questa possibilità e capacità. Fu l'egittologo Pierre Monté a dichiarare che Hatshepsut è stata una pioniera delle lotte per i diritti delle donne, infatti ne ha segnato l'inizio e ha predisposto la fase affinché molte la seguissero. Purtroppo, proprio per queste sue capacità dimostrate sul campo, che le è toccato subire la damnatio memoriae, ossia la condanna esemplare che si impartiva ai nemici di Roma particolarmente odiati e dei quali si volevano eliminare le memorie destinate ai posteri. Ciò era frequente anche nell'antico Egitto. Il ricordo di Hatshepsut e del suo regno lungo e felice era pericoloso, rappresentava una minaccia al principio del dominio maschile. Bisognava che Hatshepsut non fosse mai esistita. Davvero il suo ricordo si perse, così come scomparve il suo mausoleo sotto le dune di sabbia. La storia però è sempre più forte di chi cerca di manipolarla. Il corpo di mummificato di Hatshepsut non si è mai trovato, ma il suo nome è tornato a risuonare in Egitto e a rimbalzare nel resto del mondo. Su uno dei suoi obelischi, la donna che fu faraone aveva scritto: «Coloro che vedranno i miei monumenti negli anni futuri parleranno di quanto io ho fatto». gli appuntamenti. Ops, scusate. Allora, dite la verità, da quanto tempo non sentivate più questa sigla, eh? L'abbiamo ritirata fuori dal cassone. Bene, gli appuntamenti. Allora, intanto, giovedì 8 febbraio, prossimo 21, cioè dopodomani, alle ore 19, presso la Casa Internazionale delle Donne, che cosa accadrà? Se ci sarà una cosa abbastanza importante, è la continuazione dei seminari della donna spettatrice dell'arte che noi come CLR facciamo insieme a Pina Nuzzo. Cioè Pina Nuzzo viene a conversare con noi, vi ricordo che Pina Nuzzo è un'artista, oltre che ad essere una donna impegnata politicamente all'interno dell'Udi Nazionale, e questa volta l'incontro sarà su I segni, la rappresentazione, il corpo. È il quinto incontro, gli altri incontri sono stati tutti molto interessanti, perché l'analisi che Pina fa sullo sguardo delle donne che sono non solo spettatrici d'arte, ma sono anche fruitrici, sono anche coloro che possono creare e che creano, l'analisi di Pina e il suo guidarci in questi meandri sono stati veramente significativi ed interessanti. Ancora due incontri, se volete potete venire, il costo è di 10 euro a incontro, quindi insomma dalle 7, dalle 19 alle 22 circa. Perfetto. Altro appuntamento, se vi va, se vi piace Piera degli Esposti, potete dal 6 all'11 febbraio al Teatro Valle andarvela a godere in una indimenticabile serata con Piera degli Esposti. E qua ci siamo, adesso Pina ci dirà qualche altra cosa. Vi ricordo ancora che sabato 10 febbraio ci sarà la manifestazione nazionale di Facciamo Breccia, Novat, per i diritti e la piena cittadinanza di lesbiche, trans e gay, per l'autodeterminazione delle donne, per una sessualità libera, consapevole e non asservita alla riproduzione, per la libertà di scelta consapevole in ogni fase della vita, per l'istruzione e la sanità pubbliche e laiche, per l'abolizione delle leggi ideologiche dettate dal Vaticano, per la cancellazione del concordato e dei privilegi economici che ne derivano. Contro le ingerenze della Chiesa Cattolica e la sudditanza della politica italiana, l'istigazione alla violenza e all'odio contro i soggetti che lottano per l'autodeterminazione e non conformi al pensiero dominante, lo sdoganamento e la riorganizzazione dello squadrismo neofascista, la criminalizzazione dei PACS e l'imposizione di un modello unico e patriarcale di famiglia. Il ritrovo sarà a Piazzale Ostiense alle ore 14, l'arrivo è previsto a Campo dei Fiori. Altre notizie sui treni, che volete sui treni speciali, potete trovarle su www.facciamobreccia.org. E se possiamo dirvi, noi abbiamo aderito a questa, in questo incontro nazionale, questa manifestazione, perché ci piace che una delle parole guida per Facciamo Breccia sia l'autodeterminazione, e l'autodeterminazione l'hanno inventata le donne come slogan e come parola fondante, fondamentale. Un momento solo, perché c'è un'altra notizia. Sì, vi ricordiamo che alla Casa Internazionale delle Donne in via della Lungara 19 Roma inizierà martedì 20 una settimana di incontri con Janine Altunian. Oddio, mo Silvi mi ammazza qua per la pronuncia. Janine Altunian, saggista, co-traduttrice di Freud dal 1970, il responsabile dell'harmonisation dell'equipe editoriale delle opere complete di, wow, di Sigmund Freud per la Presses Universitaria de France, è figura di spicco della cultura francese. Nata in Francia da genitori armeni sopravvissuti al genocidio del 1915, nelle sue opere testimonia di una riflessione storica, il dramma vissuto dal popolo armeno e di una elaborazione psicoanalitica, la sua storia familiare. Cosa fare qui e adesso del piacere del pensare, di pensare? Quel lusso così incongruo per coloro che sopravvivono ad un genocidio conquistato dopo tre generazioni di sforzi